Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, buona domenica, sono le 13:59 primi e 30 secondi in questo momento, in diretta come sempre attraverso Radio 24. Al mio fianco già c'è la nostra grande attrice e doppiatrice che ci ha raggiunto, lo sapete perfettamente perché seguite in tantissimi il nostro sito. Vi ricordo il 349-238-6666 per i vostri SMS che sono sempre numerosi e ben accetti. Ringrazio dall'altra parte del vetro Alessandro questa domenica, accompagnato da Rachele, capo redattrice di se stessa. I ragazzi già si stanno accalcando del nostro contest per decidere chi saranno queste nuove voci in quest'anno 2017, grazie anche alla Warner Bros. Che ha messo a disposizione, sapete perfettamente, un film. Io non so come presentarla, se con la sua voce io comincerei con una cosa che ha doppiato, una delle cose magari che ma tutte hanno molto successo, ma questa, Il Trono di Spade. Sansa, vieni qui, piccola colomba. Mia regina. Che cosa fai? Prego. Sei perfetta, vero? Preghi. E per che cosa preghi? Chiedo agli dei pietà per tutti noi. Tutti noi? Sì, Altezza. Anche per me? Certo, vostra grazia. E per Joffrey? Joffrey è il mio... Sta zitta, piccola sciocca. Chiedo agli dei che abbiano pietà per tutti noi. Gli dei non hanno pietà, sono dei per questo. Mio padre me lo disse quando mi sorprese a pregare. Mia madre, Lady Joanna, sai, era appena morta e non capivo il senso, la finalità della morte. Ero convinta che se avessi pregato tanto, gli dèi mi avrebbero ridato mia madre. Avevo 4 anni. Tuo padre non crede negli dèi? Oh, crede in loro, ma non li ama molto. Uno per lei. Ecco, siediti. Bevi. Ecco, siediti e bevi. Ma sei cattiva. Cattivissima. Mamma mia, mi ha chiamato proprio maleficente, poi anche quella sei stata. Infatti qualcuno della mia famiglia mi chiede, fatti una domanda. E come mai? Una e datti una risposta su questi ruoli. Non è vero, un esorcista. Signori, Claudia Catania al mio fianco. Buongiorno, buongiorno, buona buongiorno domenica a tutti. Tu sei nipote d'arte, lo sai, non lo sapevo, eri tu nipote di Massimo Giuliani, che insomma è inutile che lo presento, no, lo conoscete sì, perfettamente. No, sì, non lo sì, sapevo. Non lo sapevi? No. Hai scoperto le cose indagando. Sì, indagando, sì, no, non sapevo assolutamente, non dico quando sei nata, ma sei giovane, per cui hai vinto 2000 premi, hai doppiato chiunque. Questa era Cersei Lannister, sì, si pronuncia sì. Così, no, perché io sbaglio i nomi. Cersei, io sono un povero Dortmund, che l'unica cosa che ho detto di bello nel Trono di Spade è stato... Basta, questo, sì. Questo è Dortmund. Sì? Sì, no, fa questo, tu invece fai qualcosa in più. E invece volevo cominciare con te, abbiamo... preso le tue frasi più cattive e più belle del Trono di Spade. Io vorrei che tu me le leggessi. Assolutamente sì. Senza preparazione, come sempre. Ma certo, è un'improvvisazione costante. E allora, Claudia Catani, ecco, queste sono. Allora, mano al telefonino, perché le persone che ci ascoltano, poi con le voci e con le frasi più brevi si fanno proprio la cosa della chiama, il ringtone proprio, okay, della chiama, capito? Okay. Per cui però mettiamo la musica di sottofondo. Viene la signorina a riprendere, la mettiamo sul sito. Allora aspettiamo Rachele, che con tanto di telefonino mette sul nostro sito Facebook, molto visitato, e anzi vi ringraziamo tantissimo del successo che ci decretate ogni domenica e ogni settimana. Vi ricordo anche il Mama Nero, la nostra web series, la serie web detta in italiano, diretta da Mauro Meconi, uno degli autori che saluto, e Alessia Navarro delle protagoniste, che è il nostro capo progetto. E poi ci sono anch'io, vabbè, ma io rovino tutto. Eccola Rachele col telefonino che viene a riprendere. Vuoi anche la cuffia per sentire la musica? Riprendila meglio di quello che hai fatto domenica, perché Mauro Meconi ti ha contestato molto, non si sentiva il rapporto fra musica e voce. Dovrebbe darmi lezioni. espressioni, Mauro mi pone. Questa ironia fuori microfono non è non ti è stata richiesta. Non è ammessa. No, ecco, fai una cosa, di' una cosa cattiva a Rachele, per favore, Catani. Rachele deve avere cicatrici. Ecco, ce l'avrà fra poco. E allora, caro Alessandro, mandiamo questo sottofondo del Trono di Spade. Sì, tu va leggi, bene. Sono un po', va però sono belle di sentirle in va diretta bene. Dalla viva voce di Claudia Catania e Catania. E Serse, sì, Catani, Catani e Miriam. Catania, Catania, Catania, sì. Serse Cosmi, che l'allenatore del Perugia era. Lannister, vai, Claudia. Un re deve avere cicatrici. Una gentilezza di tanto in tanto ti risparmierà problemi. Un bravo re sa quando risparmiare le forze e quando annientare i nemici. Al gioco del trono o si vince o si muore. Non c'è una terza possibilità. Potrai non amare il tuo re, ma amerai i suoi figli. Più persone ami, più sei debole. Fai delle cose per loro sapendo che non dovresti farle. Ti comporti da sciocca per farli felici, per tenerli al sicuro. Ama solamente i tuoi figli. Di fronte a questo una madre non ha scelta. L'unico modo affinché il popolo resti leale è essere certi che abbiano più paura di te che del nemico. Gli dèi non hanno pietà. Sono dèi per questo. Ok, questa è la prima parte, poi andiamo sui secondi. Che bello, suggestivo. Io credo per questo il doppiaggio, con quella recitazione, ha una grossa influenza sulle persone, perché è evocativa, come un bel libro, una bella voce. È bella musicale. Voce che, esatto, io ripeto, non una bella voce, le belle intenzioni che esatto, è una voce. Sono d'accordo con te, non è, la voce è l'ultima, in esatto. realtà è l'ultimo aspetto del lavoro. Esatto, perché non è la voce timbrato chissà non cosa. È la qualità, non deve essere bella. Non... La credibilità di quello che sì. tu hai dato in questo motivo, in questo momento. Senti un po', invece mi diverte molto una cosa. Tu sei una posturologa olistica. L'indagine è andata a fondo. Sì, no, ma no, sì. Da, insomma, cioè... Sì, perché ho fatto... Questo perché gli aerei riescono a volare, ma soprattutto perché una posturologa olistica diventa una grande doppiatrice e attrice. Ma è stato il contrario, cioè in realtà cioè... affiancato al doppiaggio ho sempre fatto un sacco di altre cose, di studi, sono una amante dello studio. E quindi tutto ciò che era olistico, partendo dalla bioenergetica, lavori sul corpo, andando poi avanti alla meditazione, e al fatto di riuscire poi anche a trasmettere e condividere certi insegnamenti ricevuti, anche sull'ascolto minimale del proprio corpo all'interno, quindi tutto quello che poi riguarda un po' più l'aspetto dell'attore e la vocalità e la punta dell'iceberg, mi ha appassionato molto. Allora mi sono in qualche modo... La postura, per esempio, è importantissima sì. nel lavoro. Vabbè, intanto come attori figuriamoci, una postura consapevole, no, poi libera postura, e poi per vivere. Sì. Al doppiaggio in particolare, perché nel tempo c'è una lenta usura che può prendere il sopravvento e quindi ci appoggiamo in un certo modo al leggio, teniamo le gambe troppo tese, la schiena. E allora tutto questo studio che mi serviva per tenere vivo il corpo, e sia per il doppiaggio che per recitare a teatro, cinema, eccetera, mi ha appassionato al punto tale che ho detto ho fatto anche dei lavori di gruppo con delle persone con questo metodo che io chiamo la risonanza espressiva, che quindi abbraccia il corpo, il movimento spontaneo, il suono. Però devi sapere che per poter anche solo toccare una persona e correggere una postura è una grande responsabilità. E io, che sono una maniaca ossessiva dello studio, ho detto mi voglio in qualche modo cautelare anche per poter offrire un aiuto valido. E quindi nel frattempo, negli anni passati, ho preso questa specializzazione con altre, poi anche insomma molto meno mediche, tra virgolette, come non so, la danza persiana. La danza qualunque. Persiana che si fa sulle finestre. Beh, è una delle danze pericolosissime, perché sul ciglio della finestra c'è anche la danza a serranda, ma quella persiana, la persiana. Perdonami questa ironia, no, ma tu puoi dire, ma tutto. È bellissimo, no, ma è la cosa interessante. Allora facciamo così, tu nei turni da mezzogiorno e mezza, che è pausa, sì. fai il gruppo di lavoro e facciamo una cosa olistica per affrontare meglio. Stupendo. La settimana, sì. I turni dureranno un po' di più, ma saremo tutti stati. Ma guarda che è vero, comunque presenti. Si sta tornando a questo tipo di vita analogica, sì. Non vogliamo dare attraverso questi microfoni delle indicazioni, mangiare sano, eccetera, non vogliamo essere così perfezionisti, eccetera, ma la gente sta tornando a capire che cosa significa rimettere i piedi per terra, esatto. Assaporare la terra. Sì. Ci stanno, mio figlio, quello più grande, gli ho fatto sentire un cetriolo preso dal campo, in quel momento non riconosceva il sapore del cetriolo, perché quello è quello vero. Certo. Cioè, tu sai, un altro dice la mela verde, pensava fosse uno shampoo. Cioè, capito? Cioè, invece è un'altra cosa. Sì. E questo che stai dicendo tu è funzionale. Io sono diplomato all'ISEF, non si direbbe dal fisico, però, però sono diplomato, adesso si chiama USM perché abbiamo combattuto per farlo diventare laurea. Ed è fondamentale, e soprattutto per i bambini. E i bambini che devi addrizzargli la schiena quando hanno 5 anni. È il radicamento, quello che dicevi tu, il piede è la nostra radice. Parte tutto da lì. Con il respiro e una il serie respiro, di aggiustamenti. Poi la cosa principale, lo sapete, con Diego Fussi, sì, Diego Cosso, Franco Fussi, lo state riconoscendo, e fra un po' cominceremo i tutorial anche sul canto con Donatella Pandimiglio, per cui il respiro è la base della vita. Sì, è vero, se non respiriamo moriamo, ma proprio respirare, come respiriamo? Come respiriamo, e così la voce esce fuori in un certo modo e il corpo assume un certo tipo di postura, e soprattutto la concentrazione è diversa. Fateci caso, quando siete in ansia c'è il respiro corto, cercate di respirare a lungo per riossigenare il sangue. Insomma, ci sono tantissime cose che serve per noi, poi è basilare. Per cui sei una posturologa olistica. Mi piace, a me la parola olistica. Perché sì, perché non è una specializzazione così medica, però ho dato l'esame comunque al CONI. Olistica perché l'approccio era attraverso la kinesiologia, quindi l'ascolto della muscolarità in un certo modo, e interessante, quello insieme alle altre cose. Insomma. Per cui riesci ad entrare ancora di più all'interno di quei personaggi, perché respiri con loro, che è poi il segreto del doppiaggio. E cerchi soprattutto, proprio perché noi abbiamo queste posture condizionate, tenere la cuffia, i campi d'alleggio, e spesso abbiamo bisogno di muovere il corpo molto di più di quello che succede sulla scena per poter dare quel movimento anche interno. Quindi anche a me, quando capita di insegnare ai ragazzi, è sempre corpo, corpo, corpo, certo. Radice, corpo, e rilassare le spalle, quindi avere una respirazione più piena, aiuta tantissimo ad aprire anche la parte emotiva, che è qua nel torace. Assolutamente, rilassare, sì. rilassare la parte muscolare del torace, quindi sì, e bisogna anche tenersi vivi, no? Insomma, voglio fare un film dove facciamo l'amore io e la Catani, nel senso che i nostri protagonisti sono lì e voglio vedere che succede davanti a quel leggio. Voglio vedere se questa possibilità, la postura olistica ci aiuterà. No, invece sarebbe divertente fare un backstage di noi doppiatori dall'altra molto. Parte per capire che cosa succede nel corpo della persona che stai. Sì. Tu mentre doppi fai in piccolo tutte le cose che fanno quanto loro. Quanto dobbiamo rispettarlo di più di loro, perché loro sono agevolati per certi aspetti. Certo, si muovono, fanno, eccetera. Mentre noi dobbiamo rendere tutto, e il rischio è atrofizzare il nostro sentire totale, rimanere una voce bellissima, stupenda, che può anche simulare le emozioni, però questo nel tempo è dannoso. Invece, per poter avere emozioni più reali possibili, più siamo dentro il corpo nostro, certo. A prescindere da quello certo. Che succede, e più è insomma funzionale. Tantissima questa cosa, vedi? Oh, che bella cosa, impariamo sempre qualcosina in più, me compreso. Tu hai iniziato a doppiare all'età di 2 anni, sì. Tu eri il nipotino di Marlon Brando nel Padrino. Come è successo? Come Oreste Baldini era Robert De Niro da bambino, ma come attore. Oreste Baldini, vero. Ci sono qualcuno di noi... Abbiamo poi qualcuno si è dimenticato il corpo strada facendo per dare solo voce agli altri corpi, ma quello non bisogna mai farlo. Bisogna dirlo ai nostri colleghi utilizzare, perché lavorare. Si atrofizza. Sì, assolutamente. Insomma, tu hai cominciato così. Cioè... Ho cominciato così. Mio fratello aveva cominciato insieme a me, lui era più grande, quindi il ruolo era stato affidato a mio fratello Paolo certo, Catani, sì. Che è un altro, adesso è diventato, si occupa di medicina alternativa, fa tutto un percorso straordinario. Noi in famiglia... Noi vi riconosciamo perché non utilizzate né la macchina elettrica, camminate sull'aria, cioè, arrivano ai turni, li vedi, dice la Catani, guarda, è atterrata adesso con l'ombrello, appena adesso, sul tetto. Mary Poppins, sì. E dunque all'epoca io ero, mio fratello è sempre stato più timido, ero molto così, parlavo, chiacchieravo, cioè, ero in fondo alla sala e non stavo zitta un momento, con mia nonna, accompagnati entrambi. A un certo punto venni chiamata al leggio per provare, ero molto disinvolta, e così ho cominciato giocando, sai, ti davano la botta sulla spalla, certo, per darti il tempo, ma poi i bambini Carlo sono... Romano poi era il direttore, Carletto Romano, la voce di Jerry Lewis, sì, un uomo quindi, meraviglioso, che bello che sei riuscito a conoscerli, sì, io guarda. Ne ho soltanto sfiorati e mi manca il fatto di non averli toccati con sai la che voce. Lui era abbastanza, aveva un corpo, sì, no? Sì, e quindi importante. I bambini che sono crudeli e semplici come lo sono stata anch'io, quando lo incontrai la prima volta tenevo la mano a mia nonna e l'ho guardato, ma come ciccione lui. Certo, carino, meno male in questa fase, nella fase olistica non c'è questa nella verità. Nella fase olistica siamo un po' più attenti, ecco, a non ferire, insomma. Ti ringrazio, sei molto carina. A sentire, a guardare prima noi stessi. Infatti quando ho detto che ho fatto l'ISEF non hai sorriso. Ho sorriso? Sì, no, allora no, non dovevi sorridere. Scusa, non dovevi. No, perché c'è una complicità, capisco il lavoro. Ok, grazie. No, non ha sorriso per altro. Senti un po', tu sei legata a tantissimi di questi personaggi, sia attori che doppiatori. Parlo di Ferruccio Amendola, ha vinto anche un premio Ferruccio Amendola. Tu l'hai conosciuto, cioè, hai lavorato con il grande Ferruccio. È stata ospite da noi Alessia proprio un paio di settimane fa. Che cos'era? Com'era? Ma una persona molto umana. Un uomo semplice, un uomo empatico, anche un po' chiuso, un po' apparentemente scontroso, e un grande rivoluzionario del nostro lavoro. Sì, lui quello che ha svoltato. Ha preso delle decisioni importanti, facendo sì che la voce anche assumesse un ruolo, cioè venisse riconosciuta. E poi soprattutto il rapporto col microfono, Ferruccio l'ha trasformato. Cioè il doppiaggio antico è più aulico, voci un po' più lontane. Erano tutte timbratone, e poi dobbiamo andare da quella parte. E invece lui ha portato una grande modernità, dovendo anche supportare una vocalità e una pastosità completamente dissonanti rispetto alla tradizione. Sì, era l'antieroe, come l'antieroe hollywoodiano, era nato Sozzo, che era Dustin Hoffman, brutto, sporco e cattivo di un uomo da marciapiede, e allora serviva quella voce sporca, esatto. No? Come, anche se Al Pacino lo cominciò il grande Giancarlo Giannini, con il quale anche hai lavorato anche con lui. E io, non insieme, no, perché ormai siamo in colonna separata, poi Giancarlo... Quindi. L'ho incontrato l'altra sera, ci ho parlato un'ora e un quarto, lui ascolta la trasmissione, ho fatto, ma devi venire, certo, ospite. Caspita. No, l'ascolto, ma poi sei tutto tu. Ho fatto sto tutto, allora mi ha raccontato per un'ora e un quarto tutto quello che ha fatto, per cui adesso farò, ridirò quello che lui mi ha detto e manderò dei pezzi che lui ha fatto. Sì, una presenza assente, ma presente. Esatto, ma a proposito di Giannini, a proposito di Pacino, c'è l'avvocato del diavolo, tu eri la signora Charlize Theron. E allora ascoltiamo, non eri cattivissima. No, era un po' vittima lei di tutta quella situazione. Sì, devi pagare pegno ogni tanto, santo sì, Dio. Mi sembra giusto. Allora, Claudia Catani, ce l'ascoltiamo con il corpo di Charlize Theron nel bellissimo film L'Avvocato del Diavolo. Mary Ann, John Milton, speravo di vederti qui stasera. Ed eccoti qua, già a nuotare in mezzo agli squali. John, ci offendi? Beh, sai, è un'occasione formidabile per Kevin. Sì, Kevin. E tu che cosa mi dici? Sentirai la mancanza della famiglia, no? L'ho detto a Kevin, la sola cosa peggiore è di non avere un padre e averne uno come il mio. Io ti capisco. Un brutto vizio quello di consigliare. Ma mi permetti un suggerimento? È una cosa che riguarda la tua pettinatura. Puoi anche ignorarlo. Coraggio. Che c'è? Non le piace? Non ti appartiene. Tu sei troppo viva per la permanente. Non ti dona. Tirateli un po' su. Adesso, qui, lei vuole che mi tiri sui capelli. È così tremendo? Lo farei io, ma se lo facessi, tutti quelli che ci guardano facendo finta di niente penserebbero che stiamo scopando o qualcosa del genere, Che bello questo dualismo vocale, eh? Giancarlo è pazzesco. Sì, e tu sei quanta personalità. Sì, quanta personalità. Vabbè, ma è un attore, anche, come lo sei tu. Nel senso, uno che utilizza il proprio corpo anche quando sta davanti a un microfono. Sì. E lo senti che c'è. Va in guerriglia col Pacino. Interiorizza immediatamente e restituisce attraverso tutto quello che lui già è. Questo è bellissimo. E questo ti aiuta, anche se si lavora in colonna separata. Sì, purtroppo. Questo è un peccato. Mm-hmm. Però vabbè, ci sta anche questo. Poi lui hai continuato con Giannini e con Pacino. Cambiando attrice, un'altra straordinaria interprete che è Cameron Diaz in Ogni Maledetta Domenica. Sì, Any Given Sunday. Sei tu che segui Giannini o segui tu o Pacino che segue te? Ma direi sei forse che sono più io forse a seguire loro. Eccolo là, lo chiamo Giancarlo. Guarda. È debole nel mondo femminile. Io non ascolto anche questa Ogni Maledetta Domenica e vediamo, sentiamola questa vocalità di Claudia che riesce a cambiare a secondo, giustamente, della persona che ha di fronte. Avete sentito prima Cersei Lannister, la cattiveria, ma quella pacatezza asciutta, fredda, a Charlize Theron di adesso. E adesso godiamoci questa Cameron Diaz, giovanissima, in Ogni maledetta domenica, sempre Al Pacino, sempre Giannini. Io vado giù. Non mi pare una buona idea. Vuoi giocare? Mi hanno fallato, ma ce la faccio. Vuoi giocare? Sì. Che stai facendo? Cap, è finito. Tu ora devi... Vieni. Lasciami! Mai più! Non ti azzardare mai più! Usare la fagiola come davanti ai miei giocatori! E la volta non lasciami la volare in pace! Non mi frega un cazzo se Willy sceglie di fare schemi diversi! Oh. Tony, tu lasci che sia il tuo ego a prendere le decisioni cruciali! Maria! Sta zitta e vattene! Beh, qui eri la presidentessa, no? Sì, cattiva, qui è sì. Cattiva, poi Cidella qui eri. Sì, era. Però sentite la bellezza di come si riesce a fondere. Sono tre persone diverse, abbiamo sentito fino adesso. Perché erano tre attrici diverse. Sì. Poi tu, insomma, le segui abbastanza spesso. Sono tra Cameron Diaz, Charlize Theron, no, Naomi Watts, bellissima, Angelina Jolie, sì. Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, insomma, quale preferisci? Dura. Tutte. No, tutte, esatto, tutte. Chi vuoi più bene, mamma o papà? Non, cioè, si può dire, no, sì, esatto. Non è possibile. No, su questa cosa è assolutamente bello, no. Perché, ecco, una cosa che succede al doppiatore e attore è che ha la possibilità veramente di cimentarsi in molti più ruoli. Invece come attore semplicemente la tua figura, il tuo viso, la tua età, le tue caratteristiche ti possono in qualche modo condizionare di più. Poi qui noi in Italia abbiamo sicuramente molte meno occasioni di questi attori, in America sì, l'industria è talmente... Non avremmo mai potuto fare. Non avremmo mai potuto fare, quindi riesci a poter sintonizzare la tua sensibilità su tanti aspetti diversi, e appunto può essere la cattiveria, può essere il fascino di Marion Cotillard, che ha questo poi le attrici francesi sono esatto, veramente, no. Insomma, hanno ma come qualcosa... le cogli tu queste cose? Perché a me piace questo tuo parallelismo olistico, questo fatto di entrare in empatia in un altro modo rispetto magari a quello che fa all'attore. Tu entriamo sempre, comunque la gente lo sa, entriamo in sala, non sappiamo neanche la trama. Sì. Del film che a volte la è meglio è meglio sì, un attore non deve, come nella vita non lo devi sapere, se no già lo fai così, esatto, se guarda alla fine lui sarà lui l'assassino, lo fai già assassino, il senso della fine è già nelle prime battute. Tu come entri in empatia con loro? Guarda, io mi emoziono, quello che mi succede è questo. Io per esempio adesso ho Marion Cotillard in mente, no? Allied, che cos'era, uno degli ultimi film. A parte vibrare di questa bellezza, di questa armonia, è come se quelle vibrazioni in qualche modo cercassero, no, una corrispondenza, e per questo io la chiamo la risonanza, una forma di risonanza, cioè se siamo aperti a ricevere quella roba, piuttosto che andare lì e dire adesso io farò, sì, metti la non tua c'è voce. Nessun io là. È bellissimo perché come doppiatore tu scompari, più scompari più sei al servizio, no? Di qualcosa che è già successo e che è di livello straordinario. E quindi io mi lascio emozionare anche da vissuti che magari ormai siamo grandi, ci sono appartenuti in qualche modo. E, oppure ci piacerebbe vivere. O ci piacerebbe vivere. Ci lasciamo prendere per mano dalla persona che ed sta. Ed è una possibilità in più di aprire una porta senza sapere dove ti starà portando quel personaggio. E poi c'è, a me piace anche, io proprio adoro da un punto di vista fisiologico il match vocale, sono una fan del match vocale, cioè a me piace che l'attore e il doppiatore abbiano qualche cosa in comune a livello di tono, e in quel caso mi lavoro anche laddove invece non è così. Per esempio io non che ho non la è voce un'imitazione scura, bisogna dirlo, no, non è un'imitazione, è proprio un usare il range, note scure, note medie, note alte, per essere più rispondenti a quella fisionomia fisica, a quegli zigomi, a quel naso, a quelle labbra. La Jolie per esempio richiede un lavoro importante col diaframma per arrivare alle mie parti più scure, alla vocalità più scure, mentre invece la Marion Cotillard è leggermente più leggera. E quindi è una possibilità di avere tanti volti, tante guarda, abbiamo l'esempio, cioè, abbiamo un altro film che è Changeling, Angelina Jolie, dove io faccio il tuo commissario. Mi rimetto alla clemenza della corte. Sentiamola questa vocalità usata su Angelina Jolie per questo film bellissimo, Changeling, di Clint Eastwood. Sì. Bellissimo, durissimo. Se avete dei figli, non guardatelo. Invece, noi ascoltiamola, Claudia, su Angelina Jolie. Buonanotte, mamma. No, smettila di dirlo. Smettila di dirlo. Io non sono tua madre. fare male a me, un bambino. Tu non sei mio figlio! Rivoglio il mio bambino! Rivoglio il mio bambino! Maledetto! Rivoglio il mio bambino! Ecco, adesso non c'è bisogno neanche di immaginarsela. Questa l'hai fatta tua, vera. Non sai quanto sono stata male durante questo. No, ma un film, ecco, qui l'empatia è pericolosa. Se c'è il transfert, qui diventa pericoloso. Tutto quello che ho cercato di fare... Guardatelo questo film. Sì, tutto quello che ho cercato di fare è non avere nessuna associazione poi con le mie figlie piccole. Però sì, è stato veramente potente. No, ma hai sentito il potente? Si è sentito. Cioè, non sembrava tratto da un film, sembrava tratto da un film tuo. Sì. Cioè, sì. L'hai fatta tua, rispettando però la sua vocalità, i suoi tempi. Quella poi è una, capito? È una, cioè, forma non è che quasi detto, di violenza, okay, piango, della tua natura. Esatto, piango, ma coi tempi miei, sì. Dicendo le battute coi miei tempi, no, devi andare anche sui tempi degli altri, sì. Con quell'emozione lì, per questo serve quell'empatia, quel flusso energetico che tu parli. Bravo. Ed è vero, come prima base, poi c'è tutta la tecnica, purtroppo quella, il nostro, sì, io lo sì, chiamo proprio tutto. Un artigianato, no? Sì, sì. È un artigianato perché tu vai nel dettaglio, poi c'è il campo, poi c'è la velocità del sync, devi prendere il labiale, tutto questo è la base, ma se non c'è il resto non arriva, non succede, non succede quella magia. È una magia, perché il doppiaggio, questo è una bella magia, è una traduzione. Sì. Lo urliamo sempre, sì. Poi ci sono buone traduzioni e non buone traduzioni, sì. Ma è una traduzione. Sì. È una... Chiesi una volta a Umberto Eco, quando lo incontrai, di fare per il nostro Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, che ci sarà il 23 novembre, di scrivere, di parlare della voce e il suo doppio. Sì. Perché mi parlò un giorno del falso, sì. Che è il nostro, è un falso, esatto. D'autore, ma è un falso. È un falso d'autore, bellissimo. Poi purtroppo questo. Le vicissitudini della vita non ci hanno portato a collaborare in questa cosa, ma lui era molto intenzionale, che era molto affascinato dal mondo del doppiaggio, mm-hmm. Come quello della traduzione, visto che i suoi libri sono tradotti. Parlavamo appunto di questo, quanto viene rispettato, certo. Un libro in cinese, certo. In turco, eccetera. La stessa cosa capita da quest'altra parte. Se c'è un buon adattatore, un buon traduttore, viene rispettato e viene amato per quello che è. E questo è il doppiaggio. Sì. Voliamo un po' su Marion Cotillard a questo punto. Mm-hmm. Così avete fatto un excursus vocale insieme a Claudia. Sentiamola, questa è da Inception, un film più leggero di Nolan. Sì, sì. Marion Cotillard ci ha abituato ad altro tipo di film, ma lei è brava anche in questo. Allora ascoltiamola, Claudia, su Marion Cotillard. Sto solo cercando di capire. Come puoi capire? Lo sai che significa amare all'estremo? Essere la metà di una cosa sola. No. Ti farò un indovinello. Stai aspettando un treno. Un treno che ti porterà molto lontano. Sai dove speri che questo treno ti porti, ma non puoi averne la certezza. E non ha importanza. Come può non avere importanza dove ti porterà quel treno? Perché saremo insieme. Come hai potuto portarla qui? Cos'è questo posto? È una suite d'albergo dove passavamo il nostro anniversario. Cosa è successo qui? Avevi promesso che saremmo stati insieme! Ti prego, devi restare qui solo per ora! Avevi detto che saremmo stati insieme, che saremmo invecchiati insieme! Tornerò a prenderti! Te lo prometto! Ah! Beh, Claudio, io sono veramente senza parole, nel senso che questi microfoni si alternano ai nostri colleghi, anche altri attori, eccetera, ma il tuo percorso è pazzesco. Noi abbiamo sentito per la prima volta tutte le cose che hai fatto, non tutte, ovviamente quelle che abbiamo preparato, ma una dietro l'altra, perché sono una diversa dall'altra, sembrano cinque persone diverse. Te lo urlo, ma te lo urlo neanche qui. Io non stavo leggendo sms per adesso, perché sono molto affascinato da questo percorso trascendentale che ho con te. Questa, beh, mi piace molto questa cosa. No, mi piace, sta assumendo dei toni. Io sono molto più tranquillo e pagato. Mi sono sempre di empatia. Sei stata maieutica in questo, cioè ti ascolto, non parlo. Oh, cosa che qualcuno mi ha detto, Pino, è molto bella la tua voce, sentirla. Ma visto che fai l'intervistatore, fai parlare chi intervisti, per favore, perché vorremmo ascoltare qualcosa di più da loro. È un signore di una certa età che mi è piaciuto molto. Potrei dirti quanto il lavoro di doppiatrice di Claudia Cardani mi abbia emozionato. Altri è come non citare Charlize Theron e l'Avvocato del Diavolo. Grazie Claudia. Angelina Jolie in Changeling, che meravigliosa. Sento il bisogno di congratularmi con lei per la sua straordinaria creatività poetica. Ma qui abbiamo degli ascoltatori, cioè Claudio, sì, siamo a livelli altissimi. Bellissimo, infatti, grazie. Per me Radio 24 finisce qui, perché sono molto più alti loro. I suoi componimenti che preferisco: Abbracci e Amore. Io scrivo, sì, cioè, non sapevi questo? No. Scrivo poesie. No, forse che c'era scritto. Forse c'era scritto, vabbè. No, allora sono andati avanti. No, no, non c'era scritto. No, sì, ma sì, dimmi, sì. No, siamo arrivati, è chiuso il blocco, chiedo scusa. Niente, ma scrive pure. A tra poco con Claudia Catani, scrittrice. Voi sanatovi, scusate, a tra pochissimo. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, e davanti a me, al mio fianco, Claudia Catani, ma poliedrica, sfaccettata, come la voce, quella che noi studiamo in tutte le sue declinazioni. Stiamo studiando Claudia e stiamo forse anche imparando qualcosa, per quanto mi riguarda. Tanti messaggi di complimento, ovviamente. Abbiamo scoperto, ho scoperto, perché voi già lo sapevate, che la nostra cara amica è anche una scrittrice. Mi piace la poesia, sì. E sono pubblicate ovviamente queste cose, soltanto in internet ti diverti sul tuo sito, no? Alcune le condivido per vedere cosa succede. E poi sto lavorando appunto adesso a una pubblicazione, sono un centinaio, forse qualcosa di più. Voglio fare proprio una raccolta completa. Ho iniziato a scrivere a 6 anni, quindi per me è parte della mia vita. È come Mozart, santa miseria, quello a 5 anni ha scritto il primo componimento, ti viene una tristezza, dici io ancora io devo scrivere una lettera. E allora, tu però non l'hai mai letta, le hai pubblicate? Sì, non le ho mai lette. E allora, no, questa è una... ne abbiamo scelte un paio al volo. Ne abbiamo scelte un paio. Va bene, allora una è Ossimoro. E l'altra è Poesia. Esatto. Poesia anche. Esatto. Poesia, che a me piace... questa... con lo slash. Sì, ma mi piace Po, perché io amo Edgar Allan Poe, però questo non c'entra niente, però io lo amo profondamente. Ah, voglio dire a tutte le persone che sono in ascolto che io sarò a Ostia alle 5:30 a fare lo spettacolo. non temete. Già da una settimana sono lì a Ostia al Manfredi e devo dire sempre tutto esaurito, sono felicissimo di questo Per sempre malgrado tutto con Alessia Navarro, che è un bellissimo successo. Saremo lì fino al 29, ma insomma vengo, tranquilli, partirò da Roma appena finita la trasmissione, arrivo in tempo. Sentiamoci primo simoro breve e ti mettiamo anche un sottofondo. Sì, grazie. Ossimoro, se amore ti uccide, vivi per sempre. Amore, uccidimi, lembi di cuore alla veglia lucida dell'eterno. Ecco, meno male che è vivente il poeta, possiamo chiedergli. Questa realtà, questo è un ossimoro. Sì, l'amore ti uccide. Che ti uccide, se ti lasci uccidere ami davvero fino alla fine, ecco. Ami fino in fondo. È quello che dico io da laico e profano, dico sì. Se siete pronti a soffrire, siete pronti a riamare, esatto. È inutile mettere quel muro davanti, esatto, a voi e dire da adesso in poi basta, eccetera, no, pronti subito a prendercela in, sì, quel posto, perché siamo pronti a riamare. Sì. Scusate, ho razionalizzato un po' troppo poesia. No, è giusto, perché come uccide l'amore? Uccide quando anche lì tu sparisci, ecco. E l'amore prende vita dentro di te. Però devi morire una parte, altrimenti c'è sempre quell'io che dice ma avrei bisogno di questo, oppure no, adesso questa cosa è stata troppo. Tu sei già sposata, c'hai già dei figli, io vero? Io ho già 2 figli, ho un compagno, okay, adesso, sì, da più di 2 anni. Ok. Per cui non possiamo cominciare insieme una nuova vita. Va bene. Andiamo su Poesia. Sogno un presente totale per noi. Io sogno notti sveglie di amori e umori. Per noi. Sogno la confidenza estrema e nessuna ombra. L'intimità all'anima nostra. Nuda, unica. Affinità elettiva, iperattiva. Voglio un sogno lucido, un corpo ludico, il bacio della donna ragno, tele omeriche, Omero il tuo, ove sospirare l'attesa, dispiegare la resa, ebbrezza senza amarezza, per noi, o siamo desti? Hai capito? Adesso puoi pubblicarle, perché ce ne sono i podcast, li scarichi e li metti sul sito tuo con la tua voce. Sì, Sì. O fai un audiolibro insieme alle poesie. Sì, dai, ce lo puoi fare giusto. Tu. Tu sei questo anche. Sì, è vero, è vero. L'aiuti molto, anche perché cioè, un'altra persona che lo legge, non sono poesie facili, no. Sono belle. Mm-hmm. Sì, cioè, sì. Se ne può parlare un po'. Se ne può parlare un po'. Apriamo questo dibattito dall'altra parte, aiutatemi, dai. Io posso capire quello che dice come Lannister, ma poi mi perdo su queste cose. No. Bellissimo, io, ovviamente, dove si trova il libro? Cioè, il libro non c'è ancora. Il libro uscirà, lo stiamo componendo. Componendo la parola giusta. Sì, perché sai, poi la poesia è straordinaria, perché non, nel momento in cui la riguardi dici va bene, adesso questa è pronta, però no, quel punto no, lì metto e poi io tendo sempre a una sintesi, per cui tolgo fino a che a volte sono poesie di 3-4 righe, però per me restituiscono quell'urgenza, quell'esperienza. Poi molte nascono da, io sono una che medita, per cui sai, molte nascono da spazi di silenzio e poi all'improvviso la tutte notte queste o il parole, giorno quando nascono, nel twilight è più notturna, come sì, come momento è più notturno. Sei ermetista? Sei neoromantica? Sei decadente? Sì, più ermetista probabilmente. Poi c'è una parte mistica che mano a mano è uscita più fuori, insomma, quindi vabbè, comunque mi ha insomma, la riconoscerete per la strada, Claudia, quella che cammina sull'acqua. Cioè, lei ha 33 anni, ha vissuto questa esperienza superandola. Senti, invece andiamo su una cosa di... A questo punto ti approfitto di te, stavamo parlando con Rachele, adesso... Ci sono 11 regole per conquistare un uomo? Però abbiamo... Per essere la mogliettina perfetta. Ok. Va bene, divertiti, vai. Divertiti, brillantizza. Fai come vuoi, cambiale come vuoi. Hai esercizio di stile come fanno i tuoi colleghi quando vengono, che gli sottopongo delle cose folli. Questa è una di quelle. Questa è stupenda. Sì, mai letta. Musichetta allegrotta o quello che sia. Vai, divertiti. Che cos'è, Alessandro? Esatto. Raffaella Carrà. Lillere e Lallere. Allora, punto 1. Sì. Abbi la cena pronta. Certo. Pianifica in tempo una deliziosa cena per il suo rientro. Questa è una forma per fargli sapere che hai pensato a lui e che ti preoccupano le sue necessità. La maggioranza degli uomini arrivano a casa affamati. Prepara il suo piatto favorito. Punto 2. Fatti bella, riposati 5 minuti prima del suo rientro, certo. Così ti fai trovare fresca e pimpante, ecco. Ritocca il tuo trucco, mettiti una cinta nei capelli e fatti il più bella possibile per lui. Beh, seguitele ste cose, donne, vai! Ricorda che ha avuto una giornata pesante, ecco. E solo è stato con i suoi colleghi. Punto 3. Sii dolce e interessante. La sua noiosa giornata lavorativa magari ha bisogno di migliorare. Tu devi fare il possibile per farlo. Uno dei tuoi obblighi è distrarlo. Punto 4. Metti a posto la casa. Deve essere impeccabile. Fai un ultimo giro per le principali aree della casa giusto prima che arriva tuo marito. Raccogli i libri scolastici, giocattoli, eccetera, e pulisci con un piumino i tavoli. No, va bene, andiamo. Punto 5. Fallo sentire in paradiso. Durante i mesi più freddi dell'anno devi preparare il caminetto prima del suo ritorno. Tuo marito sentirà che è arrivato in un paradiso di riposo e ordine, e questo gli alzerà l'animo e anche a te. Dopotutto, badare alla sua comodità ti darà un'enorme soddisfazione personale. Punto 6. Prepara i bambini, spazzolagli i capelli e cambiagli gli abiti se necessario. Sono i suoi piccoli tesori e lui vorrà vederli luccicanti. Prenditi qualche minuto per sistemare i bimbi. 7. Minimizza il rumore. Quando lui arriva, spegni la lavatrice, ecco. L'asciugatrice, l'aspirapolvere e cerca che i bambini stiano zitti. Pensa a tutto il rumore che lui ha dovuto sopportare durante la sua pesante giornata lavorativa in ufficio. Bene. Punto 8. Cerca di sembrare felice. Regalagli un grande sorriso e dimostra sincerità nel tuo desiderio di compiacerlo. La tua felicità è la sua ricompensa per il suo sforzo quotidiano. Punto 9. Ascoltalo. Forse tu avrai una dozzina di cose importanti da dirgli, ma il suo rientro non è il momento migliore per parlarne. Lascialo parlare prima. Ricorda che i suoi temi sono più importanti dei tuoi. Dio, come maschilista sta cosa. Punto 10. Mettiti nei suoi panni. Ecco. Non ti lamentare se arriva in ritardo, se esce a divertirsi senza te o se non arriva in tutta la notte. Cerca di capire il suo mondo, come lo impegni. Cerca di capire il suo mondo di pressione e compromessi e il suo vero bisogno di stare rilassato in casa. Punto 11. Non ti lamentare. Non lo saturare con i tuoi problemi insignificanti. Qualunque tuo problema è un piccolo dettaglio paragonato con quello che lui ha dovuto passare. Ah, extra. Una brava moglie sa sempre qual è il suo posto. Mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere. Quando ho finito di scopar e al focolar, io torno e vivo come un re. Oh. Si tratta dei bambini. Sì, sì, sì. Sì, esatto. Questa è la moglie perfetta, questa è un'utopia, questa è un'utopia. Sì, è un po' di parte, ma sì, abbiamo già come fare la prossima settimana, farò leggere a un uomo come essere un marito perfetto. Perfetto, bene. No, beh, ovviamente bilanciamo. Stiamo giocando, questo per dire che cosa può raccontare una voce anche da una poesia importantissima, una leggerezza ad un gioco, certo. Ad un gioco, ovviamente. Senti, tu rimani con me, sì, oggi, perché devi rimanere. Rimango. Tu sei la mia parte, promesso, olistica oggi. Sono la tua parte olistica. Io sono troppo per terra, sono della Vergine, terra, razionale, capito? Stanziale, che palle, no, poi sono fantasioso. Perché adesso poi abbiamo un collegamento e io prego Rachele di chiamare Chiara Comastri, che è una donna espertissima, siccome il 22 ottobre oggi è la giornata internazionale di consapevolezza sulla balbuzie, okay. Lei è una grande studiosa, ex balbuziente, ma donna straordinaria, professionista, che ci racconterà un po' di cose, già venuta ospite da noi e adesso ci racconterà di questa giornata importante, che cosa significa. A tra pochissimo con la mia parte olistica Catani, eccola qui, e ovviamente Chiara Comastri, e poi cominceremo anche il nostro contest con questi giovani doppiatori che stanno sgambettando di là, va bene? A tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, abbiamo in diretta la dottoressa Chiara Comastri. Ci sei, Chiara? Buongiorno a tutti, ciao. Eccola. Tino, allora, oggi è la giornata internazionale di consapevolezza sulla balbuzia. Vicino a me c'è sempre Claudia Catena, grandissima doppiatrice, attrice, ma filosofa, scrittrice e quant'altro. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a lei. Diamoci del tu, è vietato darsi del lei. Bene. Che cos'è la psicodizione? Voglio leggere queste poche righe, che la psicodizione è una cooperativa sociale che opera in tutta Italia con conferenze e corsi per la rieducazione sulla balbuzie. E tu, la dottoressa Comastri, psicologa ed ex balbuziente, che è fondamentale, hai ideato questo percorso di psicodizione che ha aiutato in questi 13 anni, pensate, più di 4.000 persone in tutta Italia. E soprattutto, lo sapevi che la balbuzia riguarda il 4-5% della popolazione? Cioè, praticamente ogni giorno tra le persone che incontri, una persona su 20 potrebbe soffrire di balbuzie. Non è una cosa di cui vergognarsi, no? È importante, visto così, assolutamente. Pensate che ci sono addirittura alcune ricerche che portano questa percentuale di incidenza all'8%. Ai. Quindi è veramente, c'è tutto un sottobosco. Cioè, questa giornata per me è importante. Perché? Perché molto spesso la balbuzia viene interpretata semplicemente, come dire, quella tipologia che è esageratamente manifesta, per cui chi veramente ha i raddoppiamenti forzati oppure ha davvero delle forzature molto evidenti. La maggior parte invece delle balbuzie sono veramente nascoste, cioè la persona fa di tutto per mascherarla durante la giornata, per cui magari tu sei a contatto con una persona che non reputi balbuziente, ma lei lo è, internamente lo sa di esserlo, perché la balbuzia ha a che fare col mondo interiore, non tanto con quanto la persona si inceppa sulla parola. Per cui avere il coraggio, insomma, di affrontarla questa cosa, e questa è la giornata, mi piace molto il fatto che è la giornata della consapevolezza sulla balbuzia, non è il balbuzie day, insomma, non è che oggi si può balbettare, gli altri giorni no, no, come sta di tante cose, mi fanno ridere quelle cose che... È la differenza, ma fondamentale, direi. È totale la differenza, insomma, e poi Claudia qui vicino a me si occupa in maniera olistica di mille cose, cioè non soltanto del suo mestiere, ma tutto ciò che riguarda proprio l'interiorizzazione, l'empatia, i flussi energetici, che non è una cosa da poco. La consapevolezza, infatti, è la parola chiave, perché come diceva appunto la dottoressa, è sempre tutto dall'interno. C'è sempre una grande rispondenza, diciamo, nel nostro agire, anche inconscio, con quello che è il sentire, che spesso ha dei traumi rimossi, e quindi anche la parola, suppongo, sia condizionata, la possibilità di esprimersi, eccetera, eccetera. Quindi la parola chiave è sempre la consapevolezza. Come la state vivendo questa giornata? Come avete organizzato, Chiara, la giornata? Guarda, siamo siamo pieni di frizzantineria nell'aria, perché praticamente da tutta Italia sono 12 le piazze italiane, mm-hmm. tutti i ragazzi di psicolezione si sono uniti, chi nei paesini più piccoli è andato nelle città principali, quindi c'è Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Mestre, Milano, Palermo, Reggio Emilia, Roma assolutamente, Senigallia, Torino, quindi dal nord al sud siamo un po' ovunque. Che esercito è? Quanti siete? Veramente, guarda, siamo tantissimi e la cosa bella è che i ragazzi dalle 15 circa, chi 14.30, chi 15.30, ma fino alle 19 sono nelle piazze proprio per far conoscere come si vive la balbuzia, una persona che balbetta, fondamentalmente. Ecco, questa è una cosa molto bella, perché dà coraggio alle persone che non lo hanno, soprattutto nei piccoli centri, dove magari un problema del genere viene vissuto come qualcosa di negativo, qualcosa da nascondere. Invece no, tantissime persone, anche chi fa il nostro mestiere, nasconde, magari non nasconde, ha avuto un passato di balbuzia importante, eccetera, l'ha risolto chi in un modo, chi in un altro. Tu invece ci sei da 13 anni sul pezzo, devo dire che lo fai in maniera molto bella, è molto leggera. Grazie. Ma non leggera superficiale, ma una leggerezza calviniana, come mi piace dire, non è superficialità, ma con il gioco. Come li riconosciamo questi ragazzi per la strada? Sono pieni di cartelli con hashtag la balbuzia si risolve, insomma sono pieni di post-it appiccicati addosso, perché per noi i post-it in realtà rappresentano un po' quelle che sono le vecchie considerazioni limitanti che ci fanno balbettare, per cui quando diceva prima sì, è una questione interna, inconscia, sì, perché a un certo punto diventa proprio la registrazione del tuo pensiero che ti dice guarda che lì ti sei già inceppato 5 volte, oggi probabilmente ti incepperai, per cui certo. C'è quella che si chiama anticipazione, no, del blocco, quindi la percezione che sta per accadere. E quindi abbiamo organizzato dei giochetti molto belli da far sperimentare alle persone che non hanno mai vissuto la balbuzia, certo. Come sente un balbuziente la sua quotidianità, per cui una persona A e B a coppie, no, una persona deve scrivere il proprio nome in maniera più ordinata possibile e l'altro, non sai quando succederà, ti toglie il foglio, ti dà un colpetto sulla mano, ti dice ma come? Le interruzioni. Sì, e cosa succede in te? Ah, che cerchi di essere più attento, che rallenti la tua scrittura, che velocizzi per evitare che... Allora, quella sensazione di tensione costante è un bel modo per far sentire. Alcuni ragazzi vogliono fare dei discorsi in piazza, iniziando balbettando, e poi... basta, la balbuzia si risolve, e lì parleranno in maniera fluida. Insomma, saranno un po' scioccanti, spero. No, ma invece questo è un gioco sì, bello, sì. Cioè il gioco con la G maiuscola, ovviamente, come quello del nostro mestiere, che è il play e i player, coloro che lo interpretano. Questo è il modo migliore per cercare di disinnescare un po' questa bomba della paura, esorcizzarla, sì, questa paura, e farla diventare una normalità che può essere presa di petto in una maniera giusta. Mi piace molto. Dovremmo fare pure una giornata della balbuzia sessuale, chi dei problemi che no, in quel momento dice mi sono inceppato 6 volte, mi incepperò pure oggi, questa è un'altra cosa, lo faccio per gli uomini. Il meccanismo probabilmente è lo stesso, non mi riguarda, l'ho detta per battuta, va bene? No, questi domani ti prendono troppo sul hai capito? Sappiate che insomma anche su Facebook tenderemo a fare una diretta che durerà 3 ore oggi, dalle 16 alle 19, mm-hmm. e quindi basta andare sulla pagina ufficiale di Psicodizione Comunità, insomma, e sarà bello perché ci saranno più ospiti, uno dei quali sarà anche Pino Insegno. Sì, grazie, mentre vado a teatro per telefono e starò con te, che lo ammazzano. Melissa Ceramella, cantautrice con un passato presente di balbuzie, che ci racconterà un po' di sé e anche insomma ci farà ascoltare una sua canzone. Guido Marangoni, comico Zelig, che anche lui ha un passato di balbuzie, ci leggerà 2 pagine anche di un suo libro appena scritto, Anna che sorride alla pioggia. Insomma, sarà bello secondo me, e poi collegamenti con le piazze d'Italia dove i ragazzi stessi ci racconteranno cosa stanno combinando, e poi ci sarà qualche esperto, psicologo, no, che racconterà qualcosa, darà qualche punto. Beh, di vista bello davvero. Io poi utilizzerò Chiara, perché abbiamo un bambino di 2 anni e 6 mesi che quest'estate, cioè a settembre, ha cominciato a forzare la prima parola, a non trovare subito le parole, però è perché ho parlato con Chiara, il cervello certe volte si muove più velocemente nei bambini, per cui stanno già pensando a quello che devono dire, per cui mi ha tranquillizzato. La parola è lenta, quindi esatto. Sono piccoli giochi sul spingere bene i suoni, ma direi che in casa insegno non ci saranno problemi. Fra tutti i chiacchieroni, no, ma infatti ha già ritrovato la sua fluidità, adesso esatto, vuole fare lo spettacolo, ha detto, adesso vuole fare l'attore, ma chissà. Siamo pronti per guardarlo sul palco. palco a breve, allora. Assolutamente sì. Chiara, in bocca al lupo, buona giornata, questa giornata della consapevolezza sulla balbuzia, e grazie per quello che fai con questa bellissima leggerezza giocosa, può risolvere molti problemi, davvero. Grazie Chiara. Grazie a voi, a Roma siamo a Piazza del Popolo oggi, eh? Eccoci. Quindi domani dalle 15.30 alle 20, Piazza del Popolo, venite a divertirvi a... Chi tartaglia è pronto, ma anche chi no, e chi ha qualcuno in famiglia che vuole aiutarlo. Certo. Liberatevi. Grazie, ciao Chiara. Arrivederci. Buona giornata a tutti, arrivederci. Grazie Chiara, ciao. Grazie. Bene, interessante, sì, no? Molto. E allora, dai, diamo spazio adesso ai nostri ragazzi che stanno fremendo dall'altra parte. Ci salutiamo per pochissimo e torniamo subito in diretta qui a Radio 24 con Voice Anatomy. A tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, Pino Insegno ai microfoni, al mio fianco sempre Claudia Catani che mi ha accompagnato in questo percorso bellissimo, meditativo, vocale. Alla fine ci sarà anche il nostro Franco Fussi con le sue pillole di salute vocale. Nel frattempo ci hanno già raggiunto i primi signori del contest del doppiaggio. Mi piace molto di più la parola contest, perché non è né un provino, né un talent, né una scorciatoia per fare qualcosa che invece uno non dovrebbe fare così. Siete giovani. Sì. Tu c'hai 2 anni più di me, più o meno. No, cioè un po' di meno, voglio dire. Di meno? Ma come, sì. Già vedi, partono male. Sì, dove dire... vanno subito. Ma come? A condiscendere. Dice vero Pino, ma sembri più giovane, no? È una parola che potrebbe essere ruffiana. Non decido. Vabbè, io se poi. Se non sono 2, sono 3. Esatto, bravo. Come ti chiami, da dove vieni? Sono Sergio Garbarino, vengo da Caserta, ho 28 anni e leggerò questo testo intitolato Impotente. Cioè, stai studiando per fare attore, già lo fai? Sì, sì, diciamo che lo faccio, però ovviamente la strada è ancora lunga. E... Sì, guarda, è lunga pure per noi, per tutti, e deve essere sempre così lunga, certo, la strada, certo. Eh? Non si smette mai di crescere. No, ma che scherzi, ancora continuo ad imparare anche oggi con Claudia e dopo con Franco Fussi, per cui, e con la gente che scrive. C'è una persona, ma la tua ospite è esperta di Theta Healing? Ah, volevo sapere. E so che è una forma di, sì, non lo so, meditazione barra anche autoguarigione, per cui Theta è un livello di frequenze vibrazionali dell'attività cerebrale. No, questa cosa in particolare non l'ho approfondita, però sono i livelli alfa, beta, teta, gamma. E penso che lì, a quel punto, che è un punto parallelo a quello che avviene nell'attività di meditazione pura e semplice, succedano delle cose, c'è un incontro con la parte del mistero interiore. Cioè, ti stacchi dal corpo a questo punto? Ma secondo me avviene una forma di integrazione, un'integrazione in qualche modo involontaria di quello che poi si rileva essere il nostro aspetto divino interiore, che è prima del pensiero, che è prima dell'identificazione con il sé inferiore, così, certo, ecco, definito. Io in questo momento sono il tuo sé inferiore. Allora, ma guarda, no, t'ho perso già dall'inizio, da quando ho detto Theta Healing già mi ero perso in questa, meno male che c'ho un Virgilio che mi sta accompagnando, oh, nei meandri del cervello umano e della voce. Allora, bene, che cosa hai portato? Allora, ho portato l'esame di maturità. Sì, infatti. Cosa hai portato? Fisica e matematica. Mi sembra di essere tornato indietro con gli anni. Esatto, bene. Chi lo dici? Me ne sono accorto subito. È un monologo tratto da School of Rock. Che si intitola... film meraviglioso. Bello, molto bello. Guarda, fatelo vedere ai vostri figli. È il modo migliore per fargli amare il cinema e la musica. Perché lì dentro c'è tutta la storia del rock. Un grande Jack Vero. Black, doppiato da Fabrizio Vidale, sì, in maniera straordinaria. Sì. Ed è un film bellissimo, perché tu senti le Zeppelin, senti i Doors, senti chiunque, sì, ma sia qualsiasi cosa, e dici che bello, perché è abbinato a un'immagine. Quando la musica è abbinata a un'immagine ti ricorda quel film, e allora te la senti volentieri. Sì. I miei figli, gli ho fatto capire che la musica nasce da lì. E allora tu che pezzo hai preso? È il monologo chiamato Il Potente. Ah sì, Il Potente. Allora, quando vuoi dici nome e cognome e il titolo del brano, così noi lo teniamo come file per essere poi ascoltato dalla commissione. Sergio Garbarino, Il Potente. Vuoi che ti insegni qualcosa? Vuoi imparare qualcosa? Lo vuoi? Va bene, ecco una lezione utile a tutti. Mollate, rinunciate, perché tanto in questa vita non si vince. Sì, provateci. Però alla fine perderete, più che alla grande, perché il mondo è dell'uomo potente. Oh, non conosci Il Potente? È dappertutto. Alla Casa Bianca, in corridoio, la Mullins, lei è potente. E il potente buca l'ozono e sta bruciando l'Amazzonia. e ha rapito l'orca Shaw e l'ha messa nell'acqua colorata, ok? Esisteva un modo per fregare il potente, si chiamava rock and roll. Ma indovinate un po'? Oh no! Il potente ha corrotto anche quella con una cosina chiamata MTV! Quindi non perdete tempo cercando di fare qualcosa di fico, o puro, o grandioso. Tanto il potente vi darà del perdente ciccione schifoso e vi mangerà l'anima. Quindi fatemi un favore e rinunciate! Yeah! Ragazzi, il giro di chitarra più bello della storia del mondo! Oddio. Bene, dai, noi qui non dobbiamo giudicare, però mi sembra una strada diversa dalla leggerezza che ha messo Jack Black nel film, ma chi se ne frega, noi dobbiamo soltanto prendere, staccarlo da quel film e viverlo come interpretazione. Mi sembra che la tua vocalità sia pure abbastanza grande rispetto all'età che ha, no? Sì. E tra l'altro una cosa buona secondo me, e non è, chiaramente non stiamo criticando, ho notato benissimo il fatto che riesce ad appoggiare col diaframma fino alla fine delle parole, e questo è molto importante, è fondamentale, soprattutto nel doppiaggio, perché spesso ci ritroviamo con l'inglese che è più tronco come lingua, e noi dobbiamo aggiungere una timbrica che sostiene la parola, la vocale finale. Quindi ti ascoltavo a occhi chiusi, ho notato, e questo è un punto già molto buono. Sì, sennò diventava una fiction italiana, quelle dobbiamo sì, no, io ho detto mille volte. Esatto. Che così non fa. Esatto. Mi sono rotto il televisore un'altra volta. Grazie mille. No, no, prego, prego. Ma visto non siamo stati gentili. Sì, sì, grazie a Dio perché... Quanti anni ho? 29. Esatto, va bene. E invece questa tua splendida... No, tua. Sta al tuo fianco, non è tua, ovviamente. È una ragazza giovane. Quanti anni hai? Ho 20 anni. 20 anni. Sì. C'è gente ancora di 20 anni. Pensa. Sì. Sei del... 97. Però sei del vecchio secolo, anche tu quando sarai nonna diranno nonna, è dell'altro secolo. Ho già vissuto due secoli, quindi... Esatto, puoi pure salutarci, dici, dai! E chi sei, no, non hai ancora 27 anni. No. Suoni tu, sei una rocker? No, sì, suono e canto anche, però... Suono la chitarra. Perché i 27 anni per chi suona il rock, sì, eccetera, sono pericolosissimi. No, vabbè, rock no. No, ok. Tu che cosa suoni? Che musica ti piace? A me piace moltissimo il musical. Mm-hmm. Questo perché anche mi piace la recitazione, quindi. E poi... Qual è il musical più bello che hai visto che ti piace? Che ti è piaciuto? Che ho visto a Londra Wicked. Ah. Ed è stato bellissimo. Però il mio preferito è Le Miserable. Ah, beh. Bubbling e Schoenberg, sì. Lì si piange sempre. L'ho visto esattamente 11 volte con 11 cast diversi. Accidenti. Anche col grande Colm Wilkinson, ma strepitoso. Sì. No, I Miserabili non ce n'è. Loro hanno fatto questi due musical, Miss Saigon e I Miserabili, poi si sono anche persi. Miss Saigon, sì. Miss Saigon, straordinario. Sì. Poi si sono un po' persi strada facendo. Sì, io non li canto, ovviamente. C'è un pezzo dei Miserabili di Cosette, di Fontaine? No, ho un pezzo di Paradiso Amaro. Ah, sì, no, che cantavi, mi piaceva sentire la tua voce. Cantare adesso, così? Si riesce a cappella a fare due note? Non valgono per il contest, però mi piaceva. Visto che abbiamo due minuti di tempo in più, perché no? Non saprei che cosa. Quello che vuoi. Anche un pezzo di Evita. Che ti viene in mente? Due note così a cappella. T'ho messo in difficoltà. On my own, lo vedi? Pretending he's beside me. Wow. Come si avvicina a Sharon Stone, sta per Dan Bacio e se ne va. No, tu mi hai aperto il pezzo On My Own, bellissimo. Mi è venuto così. Lei è uno dei miei preferiti. È Ponine, sì. Lei. Sì. Quando muore? Quando... No, no, quella sì, dopo, quando sta quella per dopo. Morire. Sì, effettivamente. Oddio, ragazzi, qui esce l'animo romantico. Ma che bella. Quando lei muore per portare la lettera. Ai due innamorati, bellissimo. Dice che cos'è? Sono gocce di non sono proiettili, sono gocce di pioggia che hanno preso il mio corpo. Beh, vabbè, lasciamo stare. Finita lì. Non so poi che continui. Cercami On My Own, ormai l'ha aperta. One Day More, santa miseria, un pezzo dei Miserabili. Cosa porti, tesoro? Io porto un pezzo di dove sei? Toscana, sì, mi sembra. Sì, sono di Firenze. Di Firenze. Sì. Ok, allora nome e cognome e il pezzo e vai. Hai bisogno di un sottofondo? No. Hai cantato a cappella senza musica, per cui puoi anche recitare. Vai. Elena Buonafede, Paradiso Amaro. Tu non ne hai la minima idea, vero? Papà, mamma ti tradiva con un altro. Per questo abbiamo litigato. Quando sono venuta a casa per Natale l'ho beccata con un uomo. Stavo male a vederla accanto a te. Sono tornata a scuola pensando che non volevo più avere niente a che fare con lei. Stavo per chiamarti e raccontarti tutto e poi invece c'è stato l'incidente. Volevo aspettare che si risvegliasse. Tu non sospettavi niente, vero? Vero? Ha disgustato anche me, tu sei sempre così impegnato. Ecco. Ehi, ragazzi. Pretending he's beside me. Vai, cantaci sopra. All alone I walk with him till morning. Without him I feel his arms around me. And when I lose my way I close my eyes and he has found me. Lascia, ti prego. In the rain the pavement shines like silver. Spero che stiate godendo a casa come sto godendo io. Che bello. Ecco, questa è un'altra cosa che voglio fare. Un'educazione al musical. Uno pensa che il musical sia soltanto cantando sotto la pioggia oppure Febbre il sabato sera, eccetera. Sono dei musical che magari uno non ha la possibilità di vedere, neanche sa che esistono. Magari, ecco, la possibilità di andare, di, ah, io non capisco l'inglese, non fa niente, non arriva, importa. Non importa, come la gente incontra a New York, ma vero, oh, mi lo insegno, ciao, ma che fa? Ah, qui a sera non si fa niente, si fa niente, a sera a New York come si fa niente? Ho trovato la gente, ma dico, vai a vedere un musical, ma io capisci l'inglese, ma che ti importa? Ma si arriva, il fantasma dell'opera, basta che sai la trama, poi vai, ti lasci trasportare, perché noi quando ascoltiamo le canzoni in inglese capiamo il significato. No, però ti piace o non ti piace, sfido chiunque a tradurre le canzoni che tu ascolti in inglese, anche perché se le traduci perdono di significato totalmente, certo, pensa a Michael Jackson, e sono cattivo. Cattivo, ammazza come so cattivo, cioè, ma dai, non si può sentire, no? E invece, è vero, è vero. Che bel livello. Ottimo, veramente. Bello, veramente. Grazie. In bocca al lupo, tanta in bocca al lupo. Sì, bravi veramente, davvero. Poi ho aperto questo link dei musical. Potete, noi abbiamo ancora di questo blocco ancora 4 minuti, per cui non facciamo in tempo a sentire, no, facciamo in tempo a sentire gli altri, ma se ne sono altri 4, però abbiamo il tempo. Allora facciamo così, io ero rimasto indietro con Lannister. Sentiamocela un po' dell'Lannister, certo. Cavolo. Le Cerse cosmiche, ecco. Arrivate, sì, gli dèi non hanno pietà, sono dei per questo, questo. Allora, vai con il trono di spade e Claudia Catani, la nostra Lannister cattiva. Le donne hanno altre armi oltre alle lacrime. Quella tra le gambe è la più efficace. Impara ad usarla. Una moglie infelice è buona amica di un mercante di vino. Se ti torturi per chi è meritevole, prima che te ne renda conto, avrai passato ogni giorno della tua vita a piangere per ogni abitante di questo mondo. In ogni parte del mondo maltrattano le bambine. Una malattia non decide di ucciderti e comunque la elimini prima che ci riesca. Ah, i primi giorni di matrimonio sono sempre i più felici. Non importa chi sei o quanto sei forte, ci saranno sempre situazioni che non puoi controllare, cose che mai avresti potuto prevedere o prevenire neanche volendo. Non puoi controllare il destino. Ma non so più qual è la musica e qual è la voce. Ma che bello, ragazzi. Già, questo, Pino, sei un grande, ma io sono grande. No, ti prego, fammi un pezzo di Will Ferrell. Ti prego, dopo questa poesia di no, Will Ferrell. No, non è vero. No, Derelict. Ansel va un casino quest'anno. Questo è un pezzo di Zoolander. Un film che non ha vinto Oscar, ma una stupidaggine, una stupidaggine. Chiedo scusa, ho interrotto questo flusso energetico fra di voi. Bello, ma devo dire veramente, sto scoprendo tantissime belle, belle persone, bei ragazzi che hanno grande voglia. E poi quello che voglio premiare è proprio la fame, la bava sulla bocca, come dice Rocky Balboa, l'occhio della tigre. cioè magari una persona anche meno brava, ma che ha questa voglia di fare, sì, bisogna darle la possibilità. Uno dice sempre spazio larga ai giovani, i politici si riempiono la bocca con questo, eccetera, basterebbe veramente poco. Questo spazio io sono contento di averlo regalato a voi in qualche modo, e che qualcuno di voi magari riesca domani ad arrivare da qualche parte, che dia anche lui lo spazio necessario agli altri. Cioè il ricambio generazionale, sì, è fondamentale, è perché sennò uno rimane attaccato a quella poltrona e non vuole più staccarsi. Con tutto il rispetto di Pippo Baudo, delle persone che sono ancora lì e che gli auguro di rimanerci in eterno, soltanto che bisogna riuscire ad essere altruisti in tutto questo, a parte che uno è anche egoisticamente, si allunga la vita, sì, perché crei delle persone, le crei tu, sei una sorta di Dio da questo punto di vista, e ti saranno sempre grati. È un'eredità che bisogna lasciare, che bisogna consegnare, no? Altrimenti cosa porti? Segreti di un mestiere con te non ha senso. No, no, infatti. Poi se vogliamo che veramente continui questo mestiere, esatto, visto che la produzione che abbiamo adesso è ancora di più degli anni passati. Sì, pure troppo rapida. Esatto, ci vuole un bel ricambio. Poi voi non avete l'età per prendere i miei personaggi, per cui c'è problema. È fondamentalmente quello. Prima che me lo dice qualcuno, parli bene, c'ha 20 anni. Se voglio essere per uno di 50 più bravo di te, non viene. Fine. Mi ascolto io insieme agli altri, i provini. Se sento un cinquantenne, bravo. Via. Via. E non è per me, non mi piaceva. No. Certo, e che faccio? Giusto. Mi circondo, non mi basta Gianluca Ward, Francesco Prando, Massimo lì. Rossi, che bisogna già quando ancora... fai i provini c'hai questi intorno che speri che bucano, che arrivano tardi, eccetera. E allora, viva Dio. Ragazzi, bene, complimenti, noi ci fermiamo un attimo e continuiamo con altri vostri colleghi, o comunque già colleghi e già magari futuri colleghi di tutti noi. Grazie. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori Voice Anatomy, sono le 15:16 primi, anche 17 fra due secondi, tanti bei messaggi, di complimenti, sono un grande, dice Francesca, non ti sminuire, ogni giorno le tue parole sono insegnamenti di vita, e l'allero, grazie Francesca, mi vuoi veramente bene, sì, cerco di utilizzare anche un po' di autoironia, ovviamente, anche, ma io vivo con questa leggerezza di prima, è la cosa che mi rimette sempre in discussione, che dovrebbe sempre rimettere in discussione chiunque, per affrontare la vita con grande umiltà e ricominciare da capo ogni volta che si fa una cosa come se fosse la prima volta. Prima Francesca scrive anche una cosa a proposito del dolore, tu prima parlai del dolore, mm-hmm, lei dice ma siete matti, soffrire per amore è il dolore più forte che si può provare, il dolore fisico porta all'eutanasia, il dolore amoroso anche al suicidio, vabbè, questa è nella maniera più romantica, antica, sì, del termine. Se chiudi il cuore, sì, porta lì, può portare lì. Tu dici dolore ma lasciando il cuore aperto, sì. Hai capito Francesca? Il cuore aperto bisogna lasciarlo nel dolore, sì. Poi saper piangere, ridere di una lacrima è la cosa più bella del mondo. Ma non averne paura, abbiamo, esatto, così paura del dolore, lo esorcizziamo così tanto che diventa onnipotente. Ma poi nel dolore riesci a trovare le cose più belle, cioè io... E dove ricominci? Certo, e dove ricominci? Ragazzi, il dolore se va gestito, tu dici sei un pazzo, che a me piace soffrire, non mi piacciono le botte, non mi piacciono le frustate, il fetish, non mi piace niente del dolore, ma il dolore ti porta a migliorare, a fare le cose. Pensare soltanto se Leopardi fosse stato biondo con l'occhio azzurro e senza gobba, stava a letto con Silvia tranquillamente e non avrebbe mai scritto quello che ha scritto. Mo non voglio augurare delle algie alla colonna vertebrale a qualcuno per essere un poeta meraviglioso, ma il dolore porta anche all'accrescimento personale. Voi ancora il dolore? Vabbè, ma, sì, insomma, siete giovani, ma pochino, il dolore ogni tanto succede, piccole dosi, ma è giusto, dai, ci deve stare, non andrà bene, devi cominciare con una 500 distrutta per arrivare al Mercedes, se no non sai ricominciare quando si arriva passo passo al dolore, se, no? Al dolore e alla felicità, vabbè, anche, ma tanto è un percorso, ragazzi, ma diventa, oggi è colpa tua Claudio, sta filosofia, sta... Ah, allora, quanti anni hai, come ti chiami? Daniele Campanari, 28 anni, vengo da Latina. Che voce c'ha lui? Sentiamo. Interessante. Sì. È particolare, un po', sì, velata. Sì. Attento che tu perdi la voce facile, mi sa. Sì, anche perché se continuo a fumare un altro po'. Ma non è tanto quello, non è tanto per dire spezzare una lancia da sigaretta o non sigaretta. È come si utilizza la voce. Se tu la ingoli, certo, tanto, ovviamente, ce l'hai chiusa lì, non apri quella bella gola che hai, non ti appoggi bene sul diaframma, eccetera, eccetera, i respiri non sono giusti, ecco lì che la voce, quando tu strilli, si chiude, si strozza. Succede, si strappa, esattamente questo. Scaricatevi le pillole di salute vocale del maestro, del dottor Franco Fussi, c'è da imparare anche lì. Cosa mi porti, caso, caro amico? Allora, io ho portato un piccolo monologo da Love Actually, un film del 2003. Vabbè, quello leggero sull'amore. Su esatto, abbastanza leggero. Declinazione dell'amore. Sì, è una parte interpretata da Hugh Grant. Attenzione, lo faceva Luca Ward. Nel doppiaggio Angelo Maggi. Era Angelo? Sì. Stiamo più tranquilli come vocalità, allora, dai, siamo più sereni. Almeno nelle informazioni che ho trovato. Sì, sì, sì. Se le leggi su Antonio Genna, sull'Enciclopedia del Doppiaggio, ti dicono tutto quello che facciamo. Vabbè, Angelo Maggi è già più tranquillo come vocalità. Sì. Se sicuramente no, ti toccava abbassare. Ma poi non bisogna l'imitazione di chi l'ha fatto. Mai. Questo bisogna stare come è stato prima School of Rock, è andato su altri toni, va benissimo, l'importante sia fatto bene. Ti serve un sottofondo d'amore? Sì, c'è una base che hai, è anche quella tu? Originale, sì, è quella originale proprio del film. Alessandro, ma ti ha dato delle cose, dei soldini per farlo? Insomma, Alessandro prende... Pochi, anche perché... Pochi? Insomma, no, vabbè, Alessandro, un sottofondo qua, un sottofondo là, con gli straordinari da domenica, Porello pure lui che deve lavorare domenica. Va bene, allora ascoltiamo, ripeti il tuo nome, il cognome e il pezzo. Daniele Campanari, Love Actually. Ogni volta che sono depresso per come vanno le cose al mondo, penso all'aria degli arrivi dell'aeroporto di Heathrow. È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio e avidità. Ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Spesso non è particolarmente nobile o degno di nota, ma comunque c'è. Padri e figli, madri e figlie, mariti e mogli, fidanzati, fidanzate, amici. Quando sono state colpite le Torri Gemelle, per quanto ne so, nessuna delle persone che stava per morire ha telefonato per parlare di odio o vendetta. Erano tutti messaggi d'amore. Io ho la strana sensazione che se lo cerchi, scoprirai che l'amore davvero è dappertutto. Allora, no, la bella voce, eccetera, quella diciamo prima, l'hai fatto bene, in italiano corrente, delle intenzioni giuste. Se mi permetto di dirti, devi essere più leggero, meno in doppiaggese, meno in recitatese. Ora sembravi una persona che diceva bene, lo leggeva bene, ma sembravi un DJ. Ok? Sembrava che per radio ti era arrivata una persona che aveva detto basta l'odio, basta il rancore, e tu gli stavi rispondendo in maniera molto distaccata. Invece questa è una cosa che lui prova direttamente. Sì. Per cui più leggerezza. Questa parola torna come minimo comune multiplo oggi. Però era questo, cioè, ti ripeto, l'hai fatta bene. Però era un po' recitata, per quanto più mi tua, riguarda. Più tua. Più semplice, più non la tua voce che stai cercando di fare in questa maniera. Ok, molto DJ radiofonico anni 80. Okay. È facile a dirsi, no, ma è vero, sono no, d'accordo. No, ma tu sei così, veramente. Anche quando parli normalmente sei stentorio. Tu non c'hai 20 anni, 28 anni, ce n'hai 58, 59 quando parli, sei un uomo. Sì. Cioè parli con una certa sicurezza, una certa stentorio così importante. Che ti ripeto, dava bene, Non ho nulla da dire, esce fuori il mio cognome qui in segno. E siccome lo faccio da tanti anni, mi viene spontaneo dare un consiglio, soltanto un consiglio: se tu ti alleggerisci un po', rendi più fluido tutto questo, diventa più semplice, più bello, arriva di più, perché lui parla d'amore. È come se io utilizzassi, dammi un po' il testo un attimo, metti un po' quella musica. Ogni volta che sono depresso per come vanno le cose al mondo, penso all'aria degli arrivi all'aeroporto di Heathrow. No? Ci sta, però invece non devi far... uno dovrebbe essere... Ogni volta che sono depresso per come vanno le cose al mondo, penso all'aria degli arrivi all'aeroporto di Heathrow. È opinione generale che ormai viviamo in un mondo fatto di odio, di avidità. Ma io non sono d'accordo. Per me l'amore è dappertutto. Non lo so, non è la perfezione, però non è l'amore è dappertutto. Più leggero, insomma. Sì, sono un po' più leggero. Non so se era giusta, Claudia, la direzione. Sì, più vulnerabili, non quella leggerezza tu stai evocando, un po' più di vulnerabilità, la parola che mi mancava. Tu sei libera tutte le domeniche per darmi dei sinonimi e dei contrari. Dei contrari. Ti dispiace? Bene. Ok, ti ringrazio. Ci sono. Eccoti, signorina. Salve. Ciao. Come ti chiami? Chiara Sansone, e ho 23 anni, e sono di Bari. Di Bari, bellissima Bari, che cosa. Volta quando chiedi, ho chiesto, mi è rimasto questo a Bari, dico scusate il teatro team, allora prendi non la prima, prendi la complanare, intanto non la prima, non la seconda, la quarta, la terza, ma direttamente, bellissima. Che cosa hai preparato? Allora, io ho scelto volutamente un film poco conosciuto. Ah, per sì, evitare, ne parlavamo prima durante la pubblicità. Insomma, sì. di andare in, sentire troppe volte troppi chi l'aveva fatto? Film. Ok. Ecco. E, che momento è? Allora, è proprio l'inizio del film, si chiama I Origins, mm-hmm. che vabbè, è stato abbastanza criticato dai miei amici, però comunque è un film abbastanza caruccio. E vabbè. Ed è anche un po' inerente, insomma, con l'amore, queste cose qua. Vabbè, questa è l'età più giusta per cominciare poi a soffrire, no? Se devo che ci fate soffrire, comunque, vabbè. Allora, ripeti il tuo nome e cognome, il pezzo che porti, e c'è un sottofondo anche per te, lo vuoi? Non ce l'ho, però sì, sì, c'è. D'amore, una cosa leggera? Lascio buona... scegliere al... Ah, così non gli dai soldi, ok, così sceglie lui, quinto emendamento, e non gli dai una lira. Va bene, vai. Chiara Sansone, I Origins. Tu lo sai che cosa sono i fasianidi? Sono uccelli. Uccelli che provano tutte le emozioni in un solo istante. Quando cantano esprimono amore e rabbia e paura e gioia e tristezza, tutto insieme. Mescolato in un unico suono magnifico. E quando gli capita di incontrare l'amore della loro vita, sono al tempo stesso felici e tristi. Felici perché capiscono di essere di fronte all'inizio, ma tristi perché in fondo sanno che è già finita. Come sono drammatici sti ragazzi. Bene, bene. Passionali. Arrivano bei messaggi per tutti voi. Sei un maestro fantastico. Sì. Critico sincero e vero. Ciao Pino, che bello, da un po' di tempo tu e la Premio della Ditta mi fate compagnia ogni sera grazie a un canale. Sempre, siamo i più trasmessi da anni. Soltanto che non paga nessuno di questi canali. Va bene. Episodi finché c'è Ditta c'è Speranza. Vi do una notizia che fra un po' usciranno 29 puntate in web della Premio della Ditta. Dentro un noto supermercato, non posso fare pubblicità perché c'è un brand che ha riabbracciato l'idea della premiata ditta, che non è mai morta da questo punto di vista, per cui vi avvertirò quando usciranno tra poco questi nuovi episodi della premiata ditta. Nel frattempo complimenti pure a voi, adesso facciamo entrare nell'altro blocco prima di poi far arrivare Franco Fossi e gli altri due. Speriamo bene anche per loro, insomma, poi ci siamo perché a fine novembre credo che chiuderemo questo contest per dare poi voce ai finalisti in una giornata dedicata interamente a voi con i responsabili della Warner di Radio 24 e speriamo di ritrovarvi in sala insieme a noi. Speriamo, dai. Grazie. Speriamo, sì. In bocca al lupo. Bocca tra pochissimo lupo. Invece voi signori miei non vi muovete, a tra poco Voice Anatomy. Sanatomi. Eccoci arrivati signori miei al penultimo blocco della nostra trasmissione, i nostri amici forse, sto guardando uno dei nostri ospiti che non sente la sua voce e devi alzare la cuffia e dov'è il cursore, cominciamo bene, c'è un cursore, il filo va a finire là, se tu alzi, fatto. Benissimo, bravo. E allora siamo sempre in compagnia dell'amica Claudia Catani che mi sta facendo... compagnia, non solo assisto compagnia, al contest. Esatto, non solo, insomma. E abbiamo questi ultimi due pretendenti al trono di nuove voci per quanto riguarda il doppiaggio, una ragazza più giovane e un signore, vedi? Un signore sei, io per dare forza anche al fatto che chiamiamo anche le persone più grandi che potrebbero dar fastidio al conduttore. Sono quel cinquantenne di cui di qui sopra, ne hai? 49. Ancora no allora? Ancora no, sì. Però c'è la voce più leggera, non mi spaventa, va bene? No, però io faccio pure quelli più leggeri. Allora cominciamo da te, dai. Sì. Io sono Michele Cuonzo e vengo anch'io dalla provincia di Bari. Dove? Palo del Colle. Diciamogli i nomi, sì, perché sì, sono certo. importanti, questa bella nazione è fatta di questi piccoli paesi meravigliosi e noi dobbiamo nominarli anche per rendere orgogliose le persone che in questo momento... Anzi, saluto chi mi sta sentendo. Oh, vedi come si fa per televisione. Bene, allora vai, che cosa hai portato? Io sono impreparato per quanto riguarda... Sono molto contento. Io non sapevo dovessi portare qualcosa. Certo, l'ho detto solo 25 milioni di volte sul sito, comunque va bene. Allora, sto improvvisando, è un mio testo. Un tuo testo? Sì. il film di Nanni Moretti. Ho portato le poesie di Nanni Brichicchi, che è vivente. Prego, al museo. È il finale di un piccolo racconto, insomma, che ho scritto. Si chiama Da quando non ci sei. Anche qui, amore che se ne va. Va bene. Vuoi però una musica che ti accompagna? Sì, ho indicato. Remo Anzovino, dove sei, si chiama. Remo Anzovino? Sì. Ma chi è? È un pianista. Ti chiedo scusa, un tuo amico? No. Tutto in famiglia sta per fare. No, è una persona. Sono io ignorante. Chiedo scusa. Chiedo scusa a Re Manzovino, non volevo mancare rispetto a un grande professionista. Sì. E allora, ripeti il tuo nome e cognome, il pezzo, il titolo del pezzo e vai. Michele Quonzo, Da quando non ci sei. Cercarti nel mio nuovo mondo non ha senso. In questa realtà non ci sei, non puoi esserci. Me ne accorgerei. La pioggia verrebbe a cercarmi e ogni goccia mi urlerebbe dove e come trovarti. Ma non lo farà, perché siamo in due mondi paralleli che, come le rette, non si incontrano mai. Tranne che in un punto molto lontano, forse troppo lontano. Il punto improprio, come il nostro amore. Funziona solo se non ci incontriamo. Se ognuno dal proprio mondo, pensando al suo parallelo, sorriderà allo specchio e si accorgerà di desiderare di voler passare dall'altra parte. Mi piace. Bello, bello. Mi piace. Poi, ecco, questo bello. È l'esempio che facevamo prima. Allora, non è la bella voce classica, ma è il cuore quello che ha parlato e le intenzioni, ovviamente. Poi c'è una tecnica, ovviamente, che deve rendere plausibile quello che uno sta dicendo. Ed è arrivato. Sì. Che normalmente poi chi scrive non sa leggere le proprie cose se non è proprio sì. Già come lei, un'attrice e comunque... No, navigata nel mestiere. Sono sicuro che i più grandi poeti, se leggessero le proprie poesie, non avrebbero la stessa forza. Infatti, se magari lette sì. Da Albertazzi o da Gassman, chissà chi. E invece no, è arrivata. Poi una voce particolare, un sì. Po'. Insomma, poi Luigi Ferraro. Ma io ho pensato a Mino Capri, una voce di un carattere. Una voce esatto. Che viene definita carattere sì. Nel doppiaggio. Sì, sì. Dai, beh, va bene. Mi fa piacere. Eppure è bello quel pezzo del pianoforte. Sì. Questo come sì. Si chiama quel compositore? È Remo Anzovino. Come mai lo conosci? Io non lo conosco, ho 16.000 CD a casa. Perché me l'ha fatto scoprire un regista con cui ho collaborato e che saluto a sto punto, Alfredo sì. Vasco. Salutiamo Alfredo, grazie di questa scoperta. Sì, era in un suo spettacolo, era tutto l'album che si chiama Tabù. Suona pianoforte per pianoforte? Pianoforte? No, no, no, aggiunge anche altri strumenti, sì, sassofono, c'era qui, ma anche percussioni. Un bravo compositore, insomma. Bravissimo, giovane? L'ho scoperto, credo di sì, l'ho scoperto da poco. E allora facciamo pubblicità. E questo pubblicità. È un racconto che hai scritto? Sì, mm-hmm. È un po' ispirato al favoloso mondo di Amélie, ci sono dei personaggi di Amélie, poi c'è un'altra citazione della Tigre e la Neve. È pubblicato questo racconto? No, no, fallo. C'è solo su Facebook. Mi dice Rachele che è del 76, Remo Anzovino. Beh, ah, ecco, giovane, è più giovane di noi. Di te! guarda la miseria. Sempre su questo punto, sì. Io sono più anziano di te. Comunque. Esatto, di molto. Di molto. Molto. Purtroppo no. E allora diamo il benvenuto alla nostra ultima contestata. No, contestata nel contest, contestata non è bello. Buon pomeriggio a tutti. Avvicinati al microfono, sento questa vocetta un po' da latina. Buon pomeriggio a tutti, sono Giulia Segreti, ho 25 anni e vengo da Porto San Giorgio nelle Marche. Provincia di Fermo. Però. Sì, no, vabbè, ma Porto San Giorgio si conosce perfettamente. Cosa hai portato? Allora, ho portato un pezzo di Prima di te, poi però prima devo dire quanti pianti su Prima di te, su quei film che io proprio mi piace, lui con la sedia a rotelle, ricco. Che si innamora poi però della sua badante, sì, ma giovane, non rinuncia sì. Alla sua idea, sì, di esatto. Finirla. Esatto, è anche molto sì. Contemporanea come sì. Idea. Andiamo, diciamo, di spiegazioni, no, non facciamo in tempo. Volevo dire un'ultima cosa, che faccio sì degli spot radiofonici, poi sono principalmente un'audiolettrice e poi... Una? Audiolettrice. Ah, ok. E ti ho incontrato 5 anni fa a un evento di Twilight, dove eri nelle vesti di presentatore. Di presentatore, presentavo le voci di Twilight e dico sì, non guardateli perché rimarreste delusi. Ho fatto la faccia. Stefano Criscentini l'ho massacrato, ho detto chiudete gli occhi, sta entrando la voce di lui. Ma non guardatelo! Ho fatto poi la faccia tosta di salire sul palco. Hai recitato un pezzo lì. Sì, era una grandissima emozione. Quindi. E oggi sarà altrettanto, sì. Dai. Allora, ripresentati, nome e cognome, vai. Giulia Segreti, io prima di te. So che questa Non è una storia d'amore convenzionale. So che non dovrei dar voce a quello che sto dicendo, ma... ti amo. Sì, lo so, so tutto. So della Svizzera, lo so da mesi. Will, ti prego, ascoltami. So che possiamo farlo. So che non è come avresti voluto, ma... so di poterti rendere felice. E tutto quello che posso dire è che tu fai di me una persona che non potrei nemmeno immaginare di essere. Voglio costruire un futuro con te e tu... tu mi chiedi di venire a vederti mentre ti uccidi. Ti dico che ti amo. Forse non hai sentito. Ti amo! Ti amo! Ti ho aperto il mio cuore e tu non sei altro che dire no, non sei abbastanza per me. Vaffanculo, Will Traynor! Vaffanculo! Ok, mi sembra la parola giusta per chiudere in bellezza la trasmissione. Scusate. Cruciani sarà... No, siamo sdoganati noi qui, no, tranquilla, è un film. Bene, vedi, svegli, sanno pure utilizzare bene il microfono, sì, eh? Sì. Bello, sì, poi sì, questo film mi ha appassionato molto. Bene, no, sono molto contento di voi oggi. Arrivano tanti complimenti. Ludovico scrive delle cose molto belle, vi giudica e vi, nel senso buono del termine, grazie, grazie di tutti i commenti che fate, ci fate molta compagnia e grazie, grazie anche a voi. Prima di dare la parola a Franco Fussi, avremo ospite per telefono anche Marco Masini, con altro di quelle persone seguite dal maestro a Fussi. A proposito della chiusura sua. No, è vero, è vero, è vero. Sì, lui l'ha utilizzata. Claudia, ti ringrazio. Grazie, grazie a te, deliziosa. Grazie, è stato un piacere, grazie mille. Bene, e allora noi invece ovviamente andiamo avanti, in bocca al lupo a voi e voglio vederlo quel libro, come voglio vedere il libro di Claudio Catani, sì, molto presto. Vi arrivano Becchiero Mucio, dice Ludovico, il contegno, Claudia Catani, amica, mica male, sarò oibò banale, adorateli, giammai, guai, ma che scrive un po', una poesia scritta, bellissimo. Va bene signori, a tra pochissimo con Franco Fussi e per telefono l'amico Marco Masini. Ciao, a tra ciao, pochissimo. Ciao a tutti. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, come dico sempre a Voice Anatomy, al mio fianco, alla mia sinistra, il nostro ospite fisso che io ringrazio veramente con tutto il cuore, che è un grandissimo professionista, il dottor Franco Fussi, con il quale ci stiamo occupando ormai da 5-6 settimane di pillole di salute vocale. E come sempre abbiamo ogni tanto un testimonial che racconta della propria voce, del rapporto con Franco, eccoci, in questo caso anche il rapporto con me, nel senso buono della parola. Sentiamo un momento della sua grandissimo panorama musicale, sembra un po' male, che a me piace tanto, tanto, tanto. Prima di presentarlo voglio sentire la sua voce attraverso queste note, Se ti avessi, lo sai, capirei la mia vita, scoprendo dentro di me. E abbiamo al telefono un carissimo amico, un uomo volante, eccolo qua, Marco Masini. Marco, ciao. Che bella sta canzone. Ciao Marco. Marco, ciao Franco. Ciao, ciao Pino. No, perché hai detto solo ciao Franco, non ciao Pino per esempio? Hai detto solo ciao. No, l'hai detto distratto. Ho dei problemi di voce. Ma esatto, che bella voce invece. Marco Masini ha una bella voce, Marco. Eh sì. C'ha una bella vociaccia, bellissima, Marco. Marco, sono un po' invidioso della sua voce estrema. Della ma sua... no, non lo sei. Essere. Non lo è. Hai una voce estrema. Sei gentilissimo oggi, Marco. Sai, io so che stai costruendo all'interno della tua casa uno studio di registrazione, so che sei impegnatissimo, impicciatissimo a livello proprio manuale, no? Sì, no, sto realizzando uno studio di produzione che mi consenta comunque di portare un brano, un pezzo un po' più avanti, perché comunque si comincia anche a scavallare un certo tipo di passo, no? Anagrafico, e quindi si preferisce magari viaggiare un po' meno e stare un po' più in casa a finire il lavoro, con anche più indipendenza, anche più fantasia, più senso di creatività, perché comunque il tempo ti è alleato in questo caso. Che bella maturità hai raggiunto, Marco, te lo dico da amico e te lo dico anche da professionista, e non è, sono piaggerie quelle telefoniche, radiofoniche, grazie, che grazie. Si fanno fra persone, fra colleghi che fanno finta di non essersi visti fino a un minuto prima e poi si baciano, ciao come stai, e sono visti fino a un secondo prima. Noi ci sentiamo ogni tanto con grande affetto, però ecco, questo mi piace dirlo anche attraverso questi microfoni, perché si sente la tua bellissima maturità, la tua grande professionalità che cresce proprio direttamente proporzionale a quello che stai costruendo, che è sempre tanto ed è importante, sei sempre alla ricerca poi di qualcosa, fino a che troveremo anche una bella moglie, dai. Lo voglio vedere sposato io, Masini, non ci riesco. Ma lui ha un grande cuore, sì, un grande cuore. Ha un grande cuore, quello lo so, lo so. Grande cuore, vabbè, io voglio che diventi papà, nonno, capito? Non vedo l'ora che invecchia pure lui. Beh, potrei diventare già direttamente nonno, perché vedo che comunque a 53 anni, insomma, sia già quello il titolo che più competerebbe, però. Al di là di questo, no, ti ringrazio, ma sai, la sperimentazione mi è sempre piaciuta, sì, da quando comunque ero piccolo, quindi oggi sta tornando molto, sta tornando la sperimentazione, soprattutto nel settore musicale, perché si dà la possibilità anche a molti ragazzi di creare cose che magari prima negli anni 80, 70 non si potevano creare. Oggi la tecnologia ti dà questa possibilità, quindi è un po' nostro dovere, anche se noi veniamo da quegli anni, ma è nostro dovere allinearsi, no? Eravamo analogici, adesso siamo un po' più digitali, dai. Sì, anche se poi l'analogico è bello, si riproduce, lo si simula, no? Anche sì, nel digitale, quindi, perché in fondo rimane il calore dell'analogico inteso come emozione pura da unire al testo e alla musica. E come vedi è tornato poi di moda anche fortunatamente l'LP, no? Il long play, sì, il vinile è tornato prepotentemente sui banconi di quei negozi di dischi che sopravvivono, no? Per cui è bellissimo. Sì. Beh sì, è anche un qualcosa per regalare un po' di mistero in più e per far sì che ancora la musica possa essere oggetto di culto. Ho detto una cosa bella. Se si deve toccare, sì, la musica, si deve toccare. Sì, il disco lo tocchi, è bello, è un elemento scenografico, fa parte del mobile. È bello, ci dà più frequenze. C'è più frequenze, insomma, voi sentite il suono diverso. Sentite il suono diverso, c'è tutto. Anche noi quando registravamo con il microfono a valvolare, eccetera, il Neumann, eccetera, tu vedevi che sentivi proprio la voce, anche il respiro fino ai piedi. Adesso viene un po' tagliato il suono, come succede. Ma non vuole essere un'analisi dei mezzi, volevamo sentirti perché poi insomma voce, tu sei una la voce, Franco Fussi rappresenta chi ci cura, la voce, abbiamo sentito in queste settimane fra Bocelli, Elisa, Karima, Gabbani, insomma tantissime testimonianze. Lui ha una voce particolare, Franco, che voce c'ha Marco Masini? Che la strappa eppure continua a parlare subito dopo e continua a essere una voce pulita, certo, cioè, perché dove va? Come lui sa benissimo, ha delle caratteristiche cordali particolari, anatomicamente particolari, che gli consentono di ottenere questi suoni a periodici, noi li chiamiamo, cioè dei momenti in cui ci sono questi sgranamenti, questi suoni spontanei, non voluti, non intenzionali, ma proprio perché è quella la sua voce, cioè, la mamma natura gli ha dato sta cosa bellissima, certo, e quindi è molto adatto al suo repertorio. Hai capito? Che se l'è creato, a me mi ha dato la bellezza, a te la voce, molto espressivo d'altra parte, no? Anche molto come qualità, sì, è vero, ce l'ho tutto scritto, ce l'ho tutto scritto nella scheda, esatto, ti ha fatto l'anamnesi pure a te, giustamente, assolutamente sì, appena arrivato, esatto, mi ha subito messo al corrente di quello che eri, ho fatto l'analisi, sì, assolutamente, di quello che ero, e poi questo è bello, perché io credo che Franco sia uno dei pochi a farlo, nel senso che ti spiega esattamente nei minimi dettagli quello che è il tuo stato vocale, quello che è il suono che tu produci e perché lo produci. Quindi, esatto, ti dà la coscienza di quello che stai facendo. La coscienza e la consapevolezza anche poi, certo, di usarlo, perché quando sei conoscitore delle tue possibilità, ovviamente cerchi di sfruttarle al massimo e forse anche di allenarle in una certa maniera per poter dar poi il massimo di te stesso. Quello, assolutamente sì, no, ma infatti è importante perché è il nostro strumento sicuramente, ma anche lo strumento delle persone che fanno altro. Parliamo dei maestri, i professori, gli avvocati, chi comunica, chi vende, chi eccetera. Per cui la voce va salvaguardata e stiamo spiegando in queste settimane proprio come affrontare dai sufamigi all'aerosol o a che cosa significa l'infiammazione, come al riscaldamento vocale che dobbiamo cominciare. Abbiamo ricominciato la scorsa settimana, poi adesso abbiamo trovato l'amico Marco e stiamo approfittando di questi ultimi due minuti insieme con Marco Masini e Franco Fussi per raccontare che cos'è la voce, perché poi insomma Marco è veramente, ho sempre detto, questa voce particolare, bella, intensa, sgranata, ma non fastidiosa, cioè non è ricercata, non è finta, non è la voce cercata per stupirti, ma è quella naturale che ti fa sentire il brivido, insomma, e te lo dice un maschiaccio convinto. E comunque di ottima estensione. Anche, e c'è anche una bella estensione. Insomma, per fortuna che non è pure alto con gli occhi azzurri, eccetera, se no era finita per tutti noi, santa miseria. È che no, io credo invece... Guarda, che sei alto! No, assolutamente. Ma invece credo che proprio il fatto di non esserlo alto e bello con gli occhi azzurri sia stato un po' il segreto anche per rendere credibile un mondo che io negli anni 90 ho cercato di rappresentare e che apparteneva a coloro che non vivevano di apparenza, certo, ma vivevano di sostanza, di ricerca e anche di disagio, di paura e di rabbia. Quindi quello che ho fatto negli anni 90 comunque credo sia stato giusto farlo con le mie, con la mia fisionomia e con il mio modo di essere normale, perché forse non avrebbe neanche aiutato a essere a farlo diventare credibile. No, ma infatti sei stato una bandiera, la gente si è riconosciuta, si è analizzata e si è anche aiutata con quelle canzoni, cioè hai fatto molto di più di quello che uno pensa di aver fatto. Tante volte uno non si rende conto la forza prorompente che può avere la musica, la canzone, le parole, magari ti salvano anche la vita perché ti riconosci in un percorso e ti fermi prima di arrivare magari alla fine. Ti accompagnano, poi è chiaro, tutto cambia, si cresce, si mantiene coerenza, perché è difficile cambiare totalmente un pensiero, no. Si sta sempre dalla stessa parte, però non si può rimanere uguali, altrimenti si rischia di cadere in un buco di nostalgia, in un tunnel, in un buco nero di malinconia che poi... Esatto. Ti schiaccia. E poi non è un caso, insomma, abbiamo detto anni 90, anni 2000, siamo al 2017, tu Marco ci sei. È quello che ti fa rimanere autentico. Esatto. Anche, no? Marco, ti voglio bene, ti ringrazio di questa bella testimonianza e a prestissimo. Ciao Marco. Come sempre. Un abbraccio a tutti. Forte, ciao. Forte, forte. Ciao amico mio, ciao. Bene, Marco, abbiamo fatto però un'intervista lunga a Marco, un altro amico, un'altra testimonianza. La prossima settimana magari affronteremo. Ci riscaldiamo la prossima settimana. Grazie a tutti, ovviamente, con grande disperazione, per usare un termine caro a Marco Masini. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre da queste frequenze di Radio 24. Grazie a tutti gli straordinari collaboratori che sono intorno a me, che fanno bella questa trasmissione. Grazie a voi per volerci così bene. Domenica prossima.